La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24 in questo weekend di metà novembre, un weekend con una decina di uscite e ancora una volta la necessità di fare delle scelte a volte anche dolorose. Abbiamo cercato di raccogliere il meglio di questa settimana cinematografica e di proporvela con le novità più importanti che arrivano sul grande schermo, ma anche di arricchire questa trasmissione con interviste di grande livello, una su tutte, quella col maestro Morricone che ascolteremo più tardi. Ma andiamo subito a sentire quali sono i temi della puntata nei nostri titoli di testa. Un treno in corsa senza controllo lanciato a una velocità folle nelle pianure della Pennsylvania. Adrenalina e divertimento in Unstoppable, il disaster movie ferroviario filmato da Tony Scott e interpretato da Denzel Washington. L'altra faccia del risorgimento, senza eroi e con tanta amarezza. In Noi credevamo, Mario Martone getta il suo sguardo d'autore su un periodo storico di nuovo sotto esame a 150 anni dall'Unità d'Italia. Nascita di una nazione virtuale. The Social Network affronta il tema delle origini e dei primi tumultuosi anni di Facebook, diventata la casa comune di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Ennio Morricone sbarca a Milano. Il 19 novembre, al Forum di Assago, il grande concerto sinfonico diretto dal maestro che ha creato alcune delle melodie immortali del cinema mondiale. Stai bene? Tranquillo? Sì! Tranquillo, tieni il freno a 4, alterna con l'acceleratore se serve. Tienilo a 4, okay. Acceleratore. Ehi, non fare quella faccia, Will. Mi fai pensare che morirò, tienilo a 4. Un treno attraversa la campagna della Pennsylvania. Non è un treno qualunque, è un mastodonte rosso lungo più di un chilometro con 8 vagoni carichi di sostanze tossiche. Un treno che ha un piccolo particolare: non è guidato da nessuno, nessun macchinista, nessun capotreno. È questo il plot di Unstoppable, Fuori controllo, il film di Tony Scott, fratello action di Ridley Scott, che rispolvera così il disaster movie, un genere che fioriva negli anni 70, pensate a film come per esempio Cassandra Crossing, tanto per citarne uno, oppure tutta la serie degli Airport. Ebbene, ritorna questo genere che da un po' sembrava sepolto sotto la polvere del vintage, che invece Tony Scott rivitalizza anche grazie alle prestazioni di Denzel Washington, Chris Pine e Rosario Dawson. Scusate, sto cercando Frank Burns. Trovato. Sono Will Coulson, oggi lavoreremo insieme sul treno 1206. 1206? Esatto. La scheda treno? Sì, vuoi vedere? Qualche problema? Nessun problema. È che non mi piace lavorare in un asilo nido. Sì, beh, e a me non piace lavorare in un ospizio. Ok. Senti, facciamo così, finisco il caffè e ci vediamo a bordo. Perfetto. 1206? Sì, esatto. Come avete sentito, quella mattina il giovane capotreno al primo giorno di lavoro, interpretato da Chris Pine, non era stato accolto esattamente con entusiasmo dai colleghi più anziani. Fra loro il vecchio ingegnere ferroviario Denzel Washington, 28 anni di servizio, che doveva condividere con lui il banale spostamento di un locomotore. Questo avviene in una stazione. Più in là, in un altro scalo della Pennsylvania, l'errore e la stupidità umana avevano fatto il resto. Un macchinista sceso dal treno in marcia lenta per un eccesso di sicurezza aveva inavvertitamente inserito la marcia avanti. Il treno aveva preso velocità ed era finito fuori controllo. Comincia in quel momento questa caccia al treno in corsa per provare ad arrestare il bestione prima che arrivi a una curva a gomito dove, tutti ne sono certi, deraglierà finendo contro una raffineria. Che stai facendo? Se partiamo ora e torniamo sulla principale, lo inseguiamo a marcia indietro. Oh, un momento. L'unica maniera per fermarlo è prenderlo per la coda e boom, spararlo nella direzione opposta. Non possiamo inseguirlo, se deraglia gli andiamo dietro. Non importa, tanto il deragliatore non funzionerà. Si chiama deragliatore, per l'amor di Dio, è quella la sua funzione. Un bestione così, a quella velocità, polverizzerà tutto quello che gli si para davanti. Valle, non lo userebbero se non fosse... Hanno torto, va bene? Hanno torto. Ci stai o no? Quella corsa contro il treno e contro il tempo vedrà coinvolti i due eroi che tenteranno di inseguire il convoglio col loro locomotore, agganciarlo in corsa e cercare di frenarlo andando in direzione opposta. Il tutto guidati a distanza da una risoluta responsabile della torre di controllo, interpretata da Rosario Dawson. Ma il loro viaggio, ad alto rischio, sarà anche un viaggio dentro se stessi, alla scoperta del senso dei propri affetti. 1206 con Hooper, ci siete? 1206, passo. Volevo sapere come stavate. Viaggiamo a 96 km orari, Connie! Come? Frank, non capisco. Stiamo inseguendo il tuo treno! 1206, non ho sentito. Il gancio di traino posteriore era aperto. Se lo raggiungiamo, possiamo agganciarlo a noi e farlo rallentare. Frank, non potete. Troppo tardi! Frank, il treno trasporta 114.000 litri di sostanze chimiche tossiche. Hanno avuto una possibilità prima. Ma sta per attraversare zone popolate, non possono farlo deragliare. Sei sicura di questo? Non ci sono sicurezze in questo film Unstoppable. Sapete che io ho un'ossessione per i titoli. Questo è il titolo originale, certo, ma Unstoppable, fuori controllo, tutto fa capire tranne che ci sia di mezzo un treno. Forse anche qui un piccolo sforzo di fantasia sul titolo italiano poteva aiutare. Comunque, Unstoppable è un film da vedere almeno per un paio di motivi. Innanzitutto la regia di Tony Scott. Il film è girato divinamente, davvero una grandissima ripresa, i suoni, i rumori, le inquadrature, la grandezza che esce dal grande schermo di questo mastodonte su ruote. Persino la velocità del treno in folle corsa arriva sullo spettatore come fossero appoggiati sul passaggio a livello al passaggio del treno. Montaggio frenetico e adrenalina pura. Poi la scelta di fare della macchina, del macchinario, della bestia appunto, il protagonista stesso del film, quasi avesse un'anima, liberando così personaggi da pelose responsabilità etiche e umane e assegnandogli solo il ruolo dell'azione. Così, nonostante anche concessione di troppo a sorrisi e abbracci nella seconda parte, il film tiene incollato lo spettatore allo schermo, volando via in un attimo. La rosa purpurea. Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, e come abbiamo annunciato parliamo della proposta italiana di questa settimana e non solo di questa settimana, perché di questo film si parla da tanto ed è un film importante per la nostra cinematografia, perché è un film diverso come struttura, diverso come potenza, diverso come immaginario, diverso come storia e anche come coraggio, forse, rispetto a quelli che siamo soliti raccontare. Insomma, sfugge da un mainstream cinematografico al quale sicuramente non appartiene. Stiamo parlando di Noi credevamo, titolo bellissimo in questo caso, perché ci dà da una parte tutta la speranza, dall'altra tutta l'amarezza di una generazione di giovani e anche giovanissimi che hanno sperato, hanno creduto in qualcosa che poi è diventata il Risorgimento, l'Unità d'Italia, e poi anche si sono disillusi forse lungo il percorso. Mario Martone, che lo dirige, segue questi tre ragazzi del sud, Domenico, Angelo e Salvatore, all'indomani dei moti repressi nel sangue dai Borboni nel 1828 e del loro avvicinamento alla giovine Italia di Mazzini. Però questo avvicinamento, come sempre, quando ti avvicini a qualcosa scopri anche di più le sue impurità, i suoi difetti. E questo avvicinamento, che viene seguito da Mario Martone in diversi episodi dedicati proprio a ognuno di questi protagonisti, porterà a capire che questo Risorgimento, tutto sommato, aveva delle coordinate che forse non rispondevano esattamente a quel noi credevamo dei suoi protagonisti. Allora noi adesso ascoltiamo un breve estratto dal trailer, poi abbiamo qui con noi alla Rosa Purpurea Mario Martone. La spagnata! Cometela! Vado! Faccio correre, papà! Abba! Rumine! Ci stanno certi, abbassano i mani! A che voglio? Addomandanole voi, signor! Ammirite le pambresse! Ma chi sarà? Noi pensavo che sono quelli Capozzoli. I fratelli Capozzoli? Oh, madonna mia! E qua ci vuole il trappedaro. Sai dove sta? No, l'ho visto sotto lì, ma... E va a chiamare a Pardo, Salvatore! Subito! Mario Martone, grazie di essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. Allora, dicevamo, Mario, una storia di disillusione, possiamo chiamarlo così questo film, una storia di un'evoluzione mancata o forse non del tutto realizzata? Ma io direi soprattutto la storia di un tentativo fatto non solamente per unire l'Italia, ma per quale Italia fare. Ecco, questa, se c'è una disillusione forse è proprio questa, cioè quei ragazzi combattevano non solamente per unire l'Italia, ma anche perché pensavano in un'Italia più giusta da tutti i punti di vista, e questo non è accaduto, nel senso che poi alla fine abbiamo continuato ad avere un re e non una repubblica, abbiamo continuato ad avere tante ingiustizie e ci sono tanti episodi della storia della nascita del nostro paese che noi non conosciamo, appassionantissimi, tragici, conflittuali, pieni di scontri, ma che fanno assomigliare la storia del nostro risorgimento a quella della rivoluzione francese per certi versi, oppure dell'epopea western americana, cioè, come dire, che sono luoghi di grande cinematografia. Secondo me c'è una bellissima possibilità di fare cinema con i materiali sconosciuti della nostra storia. Ecco, uno dei meriti, a mio modo di vedere, di questo film è il mettere in discussione i santi padri del Risorgimento italiano, perché forse questo fra virgolette mettere in discussione, forse anche un po' tradire, è anche il modo per riparlarne 150 anni dopo, se no andiamo a fare della geografia. Per esempio la figura di Mazzini, interpretato da uno straordinario Tony Servillo, è una figura che diventa teorica e non molto pratica, e di questo lo accusano anche alcuni dei giovani. Ebbene, sono figure che rimettono in moto un immaginario assolutamente sedimentato. Può essere questo, Mario, il compito anche di questo 150enario che si affaccia? Sì, sicuramente dobbiamo dirci una buona volta che il Risorgimento non è stato fatto di comune accordo dai padri della patria, che anzi si sono scontrati ferocemente. Cavour e Mazzini erano nemici giurati. Mazzini è morto clandestino in Italia e Cavour a un certo punto voleva impiccarlo a Genova. Quindi, come si vede, diciamo, una conflittualità che noi poi conosciamo molto bene nel nostro presente, la ereditiamo da lontano. Solo che appunto poi rimuoviamo invece quello che è successo all'origine. I padri della patria sono messi in questo film, cioè Mazzini che è quello che si vede, ma si parla naturalmente anche di Cavour, insomma aleggia naturalmente la figura di Garibaldi, sono messi in rapporto con invece storie di uomini e donne che noi possiamo toccare con mano, riconoscere, vivere, palpitare con loro. E proprio in questo rapporto tra storie individuali e storia con la S maiuscola che è inscritto il film, insomma, ecco il suo svolgersi, e credo che sia la chiave fondamentale per avvicinarsi al film. Non c'è bisogno di sapere nulla di storia per vedere questo film, basta, come dire, anima, cuore, passione e tutto viene da sé. Una domanda sull'aspetto estetico del film: ho trovato straordinaria la fotografia bruna, livida, buia in molti momenti, e poi anche alle scelte estetiche, per esempio questa di inserire ogni tanto delle infrastrutture della modernità, piloni di cemento armato coi tondini di ferro piuttosto che scale in ferro presso fuso, quasi a dire che quel paesaggio dell'anima molto, molto idealista che questi ragazzi portavano avanti l'abbiamo poi scempiato, mi faccia passare il termine, negli anni successivi. Ecco, era questa l'idea di mettere dentro queste strutture così fuori dal tempo? Il modo in cui l'ha formulato è giustissimo, cioè proprio è molto bello, anzi glielo ruberò, perché è così, è un paesaggio dell'anima sicuramente immaginato da questi ragazzi, ed è, diciamo, l'Italia che poi successivamente siamo stati capaci di costruire, molto spesso è stata invece un'Italia che siamo stati in grado di distruggere, vedi appunto al sud le coste con tutto quello che ha significato. Cioè, come dire, sia il paesaggio e del passato e del nostro presente, tutto il lato meraviglioso, e dall'altro lato si dialoga invece anche con un paesaggio distorto e depauperato, insomma, ecco, questo rapporto credo che sia che lo spettatore lo sente molto forte su di sé. Però è stato fortunato Martone, perché ha avuto un maestro di colonna sonora come Giuseppe Verdi, insomma, non capita, sì, tutti i giorni, no? La musica è molto importante, è stata una scelta a un certo punto creata abbastanza tardi, cioè quella di utilizzare per colonna sonora brani che derivano dal repertorio del melodramma, quindi come dire, come in un film degli anni 60-70 mettere, non so, Jimi Hendrix, ecco, cioè voglio dire, c'è un rapporto diretto tra quella musica e i sentimenti che provano i personaggi, quindi c'è un'adesione naturale. Abbiamo scelto delle pagine, tra l'altro, molto, insomma, anche in questo caso non quelle più note o più patriottiche, ma invece delle pagine bellissime di un Verdi anche più malinconico, scuro, e che insomma credo si sono sposate fortemente anche col taglio e la recitazione del film. E allora prendetevi le vostre 3 ore di pausa, perché il film è un film poderoso e quindi vi terrà incollati allo schermo per un periodo di tempo che però vale la pena assolutamente essere vissuto. Grazie a Mario Martone per Noi credevamo nelle sale italiane. Grazie a voi. E andiamo a giocare con il Blu-ray Game di questa settimana, la prima traccia del film misterioso che come sempre dovrete indovinare per poter vincere il Blu-ray proprio di questo film. Ascoltiamo. Richie, puoi renderti utile una volta tanto? Sì, che devo fare? Riporta la nonna all'ospizio. Questo è il primo assaggio, la prima clip, la rosa purpurea @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta, altrimenti più tardi ci saranno ancora un paio di possibilità. E a questo punto noi siamo in collegamento con un altro amico della nostra trasmissione, Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo pochissimo tempo per parlare di due film, quindi mettiamo alla prova la tua capacità di sintesi, perché abbiamo dedicato lo spazio che meritava, noi credevamo, abbiamo parlato di Unstoppable, però nelle sale italiane arrivano anche un paio di film dei quali vogliamo parlare con il nostro Boris. Uno è The Social Network. So che è un film che ti è stato molto a cuore, allora chiedo alla regia di farci sentire una clip del film e poi una tua valutazione su questo film. Mi piace, è veramente figo. Semplice e pulito. Niente Disneyland, niente ragazze nude in chat, però guarda. Che scrivi? Situazione sentimentale. Mi piacciono. È questo che smuove la vita all'università. Vuoi fare sesso o non vuoi? Per questo la gente si sceglie certi corsi o si siede in un posto invece di un altro. E diciamo che, nella sua essenza, è questo che The Facebook sarà per loro. Si connetteranno perché dopo le patatine e i pasticcini c'è la possibilità che riescano davvero a scopare. Conoscere una ragazza, sì. È veramente figo. Avete sentito, abbiamo detto nei nostri titoli di testa, nascita di una nazione virtuale per sposare il cinema e anche Facebook. Boris. Guarda, mi hai detto di essere sintetico, lo sarò al massimo. Parliamo di un poker, faccio quattro nomi e se volete potete anche chiedergli l'amicizia. Parlo di David Fincher, Aaron Sorkin, Jesse Eisenberg e Justin Timberlake. Perché? Perché il primo è il regista, il secondo è lo sceneggiatore, tra gli altri anche di West Wing, un presidente di una storia d'amore, un grandissimo sceneggiatore. Il terzo è il probabile premio Oscar del prossimo anno e interpreta Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. E il quarto è Justin Timberlake, che fa Sean Parker, l'inventore di Napster. Questi due, Zuckerberg e Parker, hanno cambiato il nostro modo di sentire la musica e di relazionarci. Fincher fa tutto questo come se fosse il nuovo Coppola, con un'intensità narrativa e visiva straordinaria. Secondo me, semplicemente un capolavoro di cui parleremo nei prossimi decenni. Altro giro, altro film, Stanno tutti bene, un film non tra i più riusciti oggettivamente di Giuseppe Tornatore, con un Mastroianni alla parte finale della sua carriera, un remake che forse per una volta, dice qualcuno, è meglio dell'originale. Sentiamo la clip. Hanno tutti qualcos'altro da fare, quindi sarò io a far loro una sorpresa. Vado a trovare mio figlio. Molto bene. Lo sa che fa? Non ne ho la più pallida idea, grazie. Il prossimo? Che ne pensa della mia opera? La sta guardando da quando abbiamo lasciato la stazione. I cavi? Ho tirato 1000 chilometri di cavo alla settimana senza fermarmi per i miei figli. 1 milione di metri per farli arrivare dove sono oggi. Sei d'accordo con la nostra introduzione, Boris? Sembra che questa volta, che questo film commuova un po' di più di quanto era riuscito a fare l'originale di Tornatore. Come spesso ci capita, siamo d'accordo. Il remake è assolutamente migliore del film, forse meno riuscito, di un grande regista come Tornatore. E ti dirò di più, contro ogni aspettativa, noi vediamo da 20 anni, se si esclude forse Will Shepard, un De Niro ciccione che è la parodia di se stesso, qui recupera una cifra stilistica che va ben oltre la ciccioneria di un Mastroianni alla fine della carriera, che non aveva certo dato lì il massimo della sua bravura. E sì, riesce a commuovere di più, si concede qualche eccesso, come la parte più onirica della mangiata con i bambini piccoli, però devo dire, sì, mi dispiace per il nostro Peppuccio Tornatore, ma è stato superato dal rifacimento, che non è straordinario, ma è un film che si lascia vedere e soprattutto qualche lacrima ve la farà versare. E allora, grazie per la sintesi al nostro Boris Sollazzo, che oggi l'abbiamo fatto davvero correre. Appuntamento alle prossime puntate qui alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Le musiche le avete sentite, sono quelle immortali delle colonne sonore firmate da Ennio Morricone. Abbiamo cominciato con Il brutto, il buono e il cattivo, tanto per darvi un po' un sapore western. Questo terzo blocco, questa terza parte della Rosa Purpurea, perché è con noi Ennio Morricone, un grandissimo piacere, direi anche un onore, avere uno dei più grandi compositori di musica per film di tutti i tempi al nostro settimanale di cinema qui su Radio 24. Buongiorno maestro. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno a lei. Noi l'abbiamo chiamata per un motivo semplice, perché sta per tornare a Milano la sua grande musica, per arrivare questo concerto straordinario con un'orchestra rinforzata, potremmo dirla, anche rispetto ai canoni classici dell'orchestra sinfonica, per dar vita in una serata indimenticabile, lo ricordo, il 19 novembre al Mediolanum Forum di Assago, a un concerto irripetibile e, ripeto, straordinario, perché ci saranno le musiche dei suoi film più noti e anche qualcosa di quelli magari meno noti, suonate e cantate da qualcosa come 170 elementi sul palco, fra professori d'orchestra e coristi, e soprattutto su quel podio ci sarà proprio Ennio Morricone, ed è per Milano un grande piacere accoglierlo. Allora, maestro, cominciamo da questo concerto. Cosa rappresenta per lei? Cosa rappresenta per lei la tappa milanese? Cosa vuol dire anche portare a un pubblico che è seduto lì, non davanti a un grande schermo, ma davanti a un'orchestra sinfonica, la sua grande musica che è nata in un'altra maniera e per un altro scopo? Significa qualcosa di molto importante, perché il contatto con il pubblico è, per un compositore del cinema, dove nel cinema naturalmente lui è nascosto, non c'è, e neanche la musica si vede, nemmeno l'orchestra si vede, e stare davanti al pubblico è un fatto emozionale molto importante, sia per me che dirigo l'orchestra, sia per l'orchestra e spero anche per il pubblico. Questo vorrebbe essere. La musica del cinema nella musica del cinema non si vede l'orchestra, e questa è la caratteristica. Viene da un altrove misterioso, e quindi dagli altoparlanti, ma insomma è un altrove che non è così esplicito come quello che si vede. Quindi è l'unica cosa che non si vede è la musica del cinema. Vederla, eseguirla davanti al pubblico è emozionante, molto importante per tutti i protagonisti. La cosa forse un po' particolare anche di questi concerti è che, mentre noi, quando vediamo i film, sentiamo magari una bella melodia sullo sfondo, ma a un certo punto questa melodia svanisce o si sotterra per lasciare posto ai dialoghi e al parlato, qui invece tutto verrà eseguito così come è nato, cioè proprio come una sinfonia. Cosa diventano queste musiche una volta, appunto, che acquistano tutte queste parti che nel film erano state un po' sfumate, diciamo così? Beh, non tutti i film sono sfumate. Secondo il desiderio del regista, ci sono delle scene dove la musica si sente bene, altre è musica di sottofondo, così. Però la musica deve avere, per essere presentata al pubblico, deve avere una caratteristica che deve avere in assoluto sempre, dovrebbe perlomeno avrebbe in assoluto sempre, quella di essere autonoma anche. Servire le immagini, ma essere autonoma dalle immagini, cioè ascoltabili indipendentemente dal film. Senta, il concerto è diviso in due parti. Nel primo tempo, dedicato a due grandi registi con i quali lei ha fatto spesso i conti e dei quali, devo dire, ha fatto in parte anche un po' le fortune. Non ci sarebbe forse adesso, chiaramente Sergio Leone è talmente un gigante che siamo tutti assolutamente adoranti ai suoi piedi, però forse il Sergio Leone che conosciamo e che percepiamo è così perché c'era anche la musica di Ennio Morricone. In breve, ecco, se può raccontarci un po' questo, cioè quanto sente, anche senza modestia, maestro, lei è una persona sempre molto, molto modesta, ma insomma, quanto sente di aver partecipato al successo di quei film e alla loro permanenza negli anni nell'immaginario collettivo? Guarda, nella mia esperienza so che se il film non ha valore, una musica di valore non gli può dare niente. E quindi i film di Leone contenevano in sé un loro valore assoluto, indipendentemente dalla musica. La musica gli ha dato un valore aggiunto importantissimo. Senta, nella seconda parte del concerto invece temi da, vabbè, immortali, come c'era una volta in America, Mission per esempio, ma anche da qualche film o da qualche sceneggiato televisivo magari meno conosciuto, meno noto rispetto a questi grandi capolavori, appunto, di Tornatore Leone. Le chiedo, se dovesse tirar fuori da questo concerto una perla, un brano che non voglio definire minore, ma insomma di minore popolarità, al quale lei però è molto affezionato e dice: ascoltate questo perché questo mi rappresenta, che cosa ci consiglierebbe? Mosè e Marco Polo, per esempio, sono due lavori televisivi molto impegnativi di qualche anno fa e per me molto importanti, che la gente certamente ancora ignora, o forse i giovani ignorano perché non hanno visto quel Marco Polo e quel Mosè. Quindi questi due brani che sono quattro temi di questi due filmati peraltro bellissimi. Ci sono nella composizione di musica per film contemporanea compositori giovani o insomma comunque sicuramente più giovani che lei apprezza particolarmente? Cioè, come le sembra la musica dei film, da film degli ultimi anni? Guardi, c'è da una parte un miglioramento e in qualche altra maniera un peggioramento. Il peggioramento di quelli che sono chiamati a scrivere musica del cinema e ancora non sono preparati a farlo, non sono preparati perché non hanno fatto gli studi giusti, perché non si sono svincolati da certe abitudini standardizzate, dei vizi musicali che ci sono tutt'oggi. E poi ci sono altri compositori che sono venuti fuori molto bene e che sono bravissimi. Maestro, io la saluto così dicendole, sottolineandole con una battuta. Io ho sentito una sua recente intervista nella quale diceva che ecco, vedere questo calore e questo affetto le fa capire di non avere sprecato la sua vita. Ecco, le posso confermare che la sua musica sicuramente è qualcosa che rimarrà e che rimane e che sicuramente è il segno di una vita tutt'altro che sprecata, ma regalata all'arte e al cinema. Grazie al maestro Morricone. Ricordiamo, grazie a tutti. Grazie, ricordiamo a l'appuntamento venerdì 19 novembre al Forum di Assago, 170 grazie. Persone sul palco e il maestro Morricone che dirige. Grazie, grazie ancora, salve. Arrivederci. E allora, dopo il maestro Morricone qui alla Rosa Purpurea e con il suo concerto, noi torniamo a giocare con i nostri ascoltatori ascoltando la seconda traccia del film misterioso di oggi. Io avevo pensato alla seta amarezzata, in questi giorni è in offerta. Oh, non credo che dovremmo preoccuparci di questo aspetto. Seta amarezzata, chi potrebbe preoccuparsi di questo aspetto? Quale film si cela dietro questo frammento di dialogo? Se non avete ancora indovinato, provateci alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Ed eccoci adesso invece alla nostra vetrina sulle novità americane. Come sempre, i primi suoni, i primi trailer, i primi assaggi sonori dei film che stanno per arrivare sui grandi schermi d'America e poi per rimbalzare inevitabilmente anche qui da noi in Italia. Il nostro trailer USA, come sapete, in questa puntata vi anticipiamo un film che in Italia vedremo solo a gennaio. Si intitola Morning Glory, ne hanno parlato molto anche i giornali italiani in questa settimana, ed è una commedia però di quelle impegnate, diciamo così, e con un cast importante che va da Rachel McAdams, a Diane Keaton e soprattutto a Harrison Ford in veste quasi comica e non in quelle di Indiana Jones così avventurose. Il regista è Roger Mitchell, che ha diretto Notting Hill, e la sceneggiatrice è Lynn Brosh McKenna, che ha scritto Il diavolo veste Prada. Insomma, ci sono mani d'autore, mani importanti a realizzare il film. Produttore è J.J. Abrams, una firma di garanzia per il cinema mondiale, ma anche per la televisione, viste la sua produzione di Lost. E allora ci colleghiamo adesso con la nostra Michela Belisario per capire di più di questo film che sta per uscire negli Stati Uniti e capire come è stato utilizzato appunto Harrison Ford in chiave di commedia. Ciao Michela! Ciao Franco, sì, per gli spettatori sarà decisamente insolito vedere per una volta Harrison Ford in un ruolo diverso da quelli interpretati di solito. In Morning Glory l'attore è una vecchia stella del giornalismo televisivo americano, ormai in pensione. La storia è questa: una produttrice TV, Becky Filler, Rachel McAdams, viene licenziata da un programma di successo. Per lei, che si era identificata fino a quel momento completamente con questo lavoro, beh, insomma è anche giovane, è un dramma dover ricominciare da capo. Ad ogni modo riesce a farsi assumere in una televisione locale che trasmette un programma del mattino di davvero scarso successo e che si chiama Daybreak. In questo passo del trailer sentiamo l'incontro con il direttore del personale, che appunto le dice che gli ascolti sono in calo, che tutti quelli che hanno lasciato il programma non hanno mai più trovato lavoro e che insomma non è un grandissimo posto, però Becky accetta. So you're a fan of our morning program? Oh, many. Yeah, we know it's terrible. Coming up tomorrow, we'll show you what to do with those shampoo bottles with just an inch of shampoo left. Huh. Daybreak's understaffed, underfunded. Any producer who works there will be publicly ridiculed, overworked, on the pay. Awful. I'll take it. Ecco, Becky pensa subito di risollevare le sorti di Daybreak ingaggiando due vecchie glorie del giornalismo che sono Harrison Ford, Mike, e Diane Keaton, Colleen. I due riluttanti alla fine accettano, lei perché dopo tutto era stata messa da parte e lui per narcisismo. Dopotutto, alla fine apparire in TV anche dopo i 60 anni fa sempre piacere. La trasmissione naturalmente decolla perché i due sono famosissimi. Il problema è che Mike e Colleen iniziano a litigare ferocemente anche in diretta. Naturalmente durante la commedia si riderà molto e ci sarà anche spazio per l'amore. Potete facilmente immaginare come andrà a finire tra le due vecchie glorie. In questo passo del trailer una loro litigata in diretta. You happen to be a pretentious, fatuous idiot. A fatuous idiot who makes three times what you make. So now is an excellent time for you to take up drinking. What's going on now? Mike is offended by a word in the next story. It's about Easter chicks. I'm not saying the word fluffy. Ebbene, allora inizieremo l'anno con Morning Glory a gennaio nelle sale italiane. Ciao Micaela. Ciao Franco, la prossima settimana. La rosa purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, la nostra quarta parte, come sempre dedicata al cinema da vedere o rivedere in casa, o magari anche recuperare e vedere per la prima volta sul piccolo schermo, come sempre con i nostri consigli, insieme alla redazione del settimanale Film TV, che sceglie dentro la programmazione dei palinsesti in chiaro e gratuiti della prossima settimana. Fa sempre più freddo fuori, allora viene voglia di rintanarsi dentro. Se non è la grande sala del cinema, che è sempre la nostra prima preferenza, ebbene, tante volte la TV ci amica e ci aiuta a recuperare. Lo facciamo questo viaggio nel palinsesto della prossima settimana con Giulio San Giorgio di Film TV, che saluto e che ci racconta qual è la sua prima scelta. Ciao Franco, segnaliamo questa settimana, martedì 16 novembre a 00:05 su Rete 4, Le conseguenze dell'amore. Il secondo film di Paolo Sorrentino, un ritratto di una solitudine, di un individuo alla deriva e del suo vuoto, un vuoto anaffettivo che viene turbato dall'amore e da conseguenze che non devono essere sottovalutate. Con un immenso Tony Servillo, una regia massimalista che all'epoca impose l'estetica di Sorrentino come tra i maggiormente riconoscibili del nostro cinema. È un Servillo che, abbiamo detto, è protagonista in uscita con il suo ruolo di Mazzini nel film di Martone Noi Credevamo, è in Una vita tranquilla negli schermi, è, per qualcuno che ancora non l'abbia visto, in Gorbaciov, quindi davvero mattatore anche con le sue presenze in sala. Le conseguenze dell'amore, martedì 16 novembre, Rete 4, 00:05. Ci sono invece, come dire, segnalazioni di sapore e anche di provenienza molto diverse. Sì Franco, giovedì 18 novembre alle 2:05 in prima visione su Rai 2, un'altra opera seconda, La Niña Santa, la storia d'amore impossibile con umori religiosi, mistici e carnali tra un medico e una ragazza che decide di redimerlo. Un film raccontato tramite i dettagli, d'atmosfera, che riesce ad essere sensoriale, sottilmente sensuale, finché conferma Lucrezia Martel come un'attrice talentuosissima dopo il poco conosciuto La Sienega. E questo è La Niña Santa, giovedì 18 novembre, Rai 2, 2:05 della notte. Grazie a Giulio San Giorgio della redazione di Film TV. Ciao Franco, grazie, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Ed eccoci allora alla terza e ultima traccia del film misterioso di oggi. Ti voglio fare un favore, Byron. Te ne devo uno. Ho vinto un sacco di soldi nel 73 con quell'ultimo tuo incontro. Il terremoto della Giamaica. Avete sentito questa pronuncia strana, questo Byron? Se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincerlo, scriveteci a larosapurpurea@radio24.it in palio il Blu-ray proprio di questo film. E come sempre noi andiamo indietro di 7 giorni e andiamo a dare un'occhiata, anzi un'ascoltata, a una delle clip che avevamo seminato 7 giorni fa. È un bel disastro. Starei malissimo. Hai perso tutto ormai. Tuo padre, la tua tribù, il tuo migliore amico. Grazie di questa sintesi illuminante. Si trattava di Dragon Trainer, questo è il film con cui avevamo giocato 7 giorni fa, uno dei film di animazione più apprezzati anche dalla critica degli ultimi anni. Hanno vinto Luca Tenti di Cattolica e Alice Chiavazza, che riceveranno proprio il Blu-ray di Dragon Trainer, del quale parliamo con il nostro recensore, il cattivissimo Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Beh sì, allora questo Dragon Trainer è assolutamente impeccabile dal punto di vista dell'immagine, c'è questo spettacolo assoluto per gli occhi, relativo ovviamente al Blu-ray. Direi che c'è un neo all'offerta audio che è praticamente la stessa per quanto riguarda l'italiano, un Dolby Digital che troviamo anche nel DVD, mentre l'inglese è nettamente superiore grazie alla traccia ad alta risoluzione. Tra i tanti extra segnalo la visione del film in modalità immagine nell'immagine per approfondire i segreti della lavorazione in compagnia di animatori e storyboard, ma ci sono anche curiosità e aneddoti sui draghi, c'è un corto inedito divertente di 16 minuti e persino un mini corso per imparare a disegnare un drago. E questo per quel che concerne allora il film della scorsa settimana, ma abbiamo le recensioni, noi dobbiamo raccontarvi un film che è stato un film epocale nel suo periodo, stiamo parlando della fine degli anni 90, Armageddon, giudizio finale di Michael Bay, film di grande spettacolarità dove c'è questa pioggia di meteoriti che arriva sulla Terra e deve essere evitata, sentiamo la clip. Anche se l'asteroide cadesse nel mare sarebbe un disastro. Produrrebbe un'onda di milioni di ettolitri di acqua bollente per poi urtare contro il fondo. Se cadesse nel Pacifico, ipotesi che riteniamo probabile, creerebbe un'onda alta 3 miglia, che alla velocità di 1000 miglia all'ora sommergerebbe la California, spazzando via tutto fino a Denver. Via il Giappone, l'Australia sarebbe un ricordo. Metà della popolazione mondiale finirebbe incenerita e l'altra metà morirebbe congelata nell'inverno nucleare. Un asteroide della grandezza dello Stato del Brasile punta dritto verso la Terra in rotta di collisione entro 18 giorni dal suo rilevamento. L'unica soluzione che la NASA riesce a trovare è raggiungere l'asteroide per poi farlo saltare con bombe nucleari. Per la missione vengono arruolati un esperto in trivellazioni petrolifere e il suo gruppo di operai specializzati che diventeranno eroi per salvare il pianeta. Catastrofico e divertente blockbuster movie da Disney Buena Vista, questo Blu-ray disc di eccellente resa, anche per la traccia DTS in italiano superiore a quella in alta risoluzione inglese. Pochi gli extra, troviamo due trailer del film e il video musicale degli Aerosmith. E adesso un altro film che più che una segnalazione rappresenta un vero consiglio della nostra redazione, si intitola Departures, è un film giapponese di un paio di anni fa, uscito la scorsa stagione in Italia, vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, uno dei film più belli, lievi e addirittura leggeri che riflettono sul tema della morte, davvero molto bello, sentiamo la clip. 50.000, 100.000, 300.000. Tutta questa differenza? Quella a sinistra è di compensato, questa ha guarnizioni in oro e due lati intagliati. Questa qui è più cara perché è interamente fatta in cipresso inoki. Ah, quindi la differenza è nel materiale e nelle decorazioni. Esatto, ma bruciano tutte allo stesso modo e tutte vanno in cenere. È l'ultimo acquisto della tua vita, ma lo sceglie qualcun altro. È ironico, non trovi? Lo scioglimento dell'orchestra lascia il violoncellista Daigo senza lavoro per far fronte alle ristrettezze economiche, d'accordo con la moglie, muove da Tokyo verso il paese natio, ma l'unica offerta è un impiego molto particolare, certo ben retribuito, vestire e toccare defunti preparandoli a un'antica cerimonia funebre. Incapace di confessare il lavoro alla moglie, supererà Daigo le iniziali difficoltà accettando questa realtà lavorativa foriera di profondi insegnamenti spirituali e terreni. Opera carica di lirismo, temi universali sulla vita e la morte, vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero, questo film arriva con un'eccellente qualità non solo in DVD ma soprattutto in Blu-ray, vale sicuramente la pena ascoltare l'opera almeno una volta nell'affascinante lingua inglese con l'aiuto dei sottotitoli. Per gli extra segnalo 32 minuti di making off e un approfondimento sul rito della deposizione denominato No Kanshi. E grazie allora a Claudio Poffi per averci raccontato anche questa settimana il meglio che c'è in videoteca, appuntamento fra 7 giorni. Ciao, a presto. E a questo punto si chiude la trasmissione, abbiamo finito con la nostra ora di cinema qui su Radio 24, l'appuntamento va la prossima settimana, come sempre il sabato alle 18 e la domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.